Gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona domenica e buon pranzo a tutti i radioascoltatori che in questo momento magari si preparano a sedersi a tavola. Ebbene, a tavola si parla di cibo. La verità è che ormai anche a tavola si parla di cibo mentre si mangia, si pensano ai piatti di prima, al piatto di poi, ai ristoranti, ai confronti. Insomma, il cibo ormai si cerca un appagamento tramite la parola e anche l'immagine. Si guardano i filmati su YouTube, si scambia opinioni sui social network e così ogni pietanza si trasforma anche in un qualcosa definito anche oggetto pornografico. Bene, insomma, allora il cibo è entrato nella nostra vita come non mai. Allora ne parleremo con una serie di personaggi che hanno approfondito questo argomento. Io comincio da il professor Gianfranco Marrone, docente di semiotica presso l'Università di Palermo e di semiotica dell'alimentazione a Pollenzo, quindi all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Buongiorno professor Marrone. Buongiorno. Buongiorno. Lei ha scritto spesso, diciamo ultimamente, prevalentemente di cibo. Buono da pensare il suo ultimo libro, però ce n'è uno fondamentale che è Gastromania. Quindi sì. Lei ha definito in questo libro un po' tutto quello che sta succedendo. Ecco, la prima domanda che le faccio è questo, parto dal fondo. Ma la gastronomia è una moda. Lei pensa che durerà o andrà presto fuori moda? Dunque, è il centro della questione. Direi tutte e due, nel senso che sia una moda è indiscutibile e va detto che lo è molto prima di Expo, ovviamente, anzi forse Expo è una delle conseguenze di questa moda. La moda, come ha giustamente detto lei, passa di moda, quindi il problema nostro sarà quello che ho provato anche in qualche modo a descrivere nel libro, e passare al setaccio e quindi lasciar via tutte le cose, appunto le stupidità, le caricature, le pose anche un po' ridicole che tutte le mode, questa più che altre, prova nei media, ma non soltanto nei media, perché è chiaro che i media poi provocano atteggiamenti nella vita quotidiana, nel modo nostro di cucinare, di fare la spesa, di cercare un ristorante o anche, appunto, come diceva lei, di parlare di cibo a tavola e fuori tavola. D'altro canto, però, quello che forse potremmo chiederci è perché oggi e non prima, cioè, ecco, perché a un certo punto è venuta fuori questa questione cui dovremmo chiederci perché se ne parla soltanto adesso, cioè perché per a lungo un argomento del genere è stato vietato o quantomeno snobbato non solo dai discorsi accademici, dove ancora oggi, nonostante tutto, continua a essere la nicchia, ma anche dai discorsi mediatici, dai discorsi di tutti noi. E lì la risposta è semplice. Quello che qualche sociologo ha chiamato il congelamento alimentare, che non è soltanto i surgelati e le scatolette, ovviamente, ma è in generale tutto un atteggiamento, come dire, di rifiuto di quello che è la sensibilità, la sensorialità, il piacere gastronomico, ma anche, ricordiamocelo, una questione critica nei confronti del cibo. Quindi, in poche parole, la gastromania ha luci e ombre, aspetti positivi e negativi. Da un lato, io credo vada salutata con passione l'idea che finalmente si ricomincia a parlare di cibo e si ricomincia ad avere una coscienza critica nei suoi confronti, e quando dico cibo ovviamente dico cucina, dico buona tavola e quant'altro. Dall'altro lato però il rischio è che questa moda in qualche modo inflazioni il discorso e la gente si stanchi. 800 24 00 24, per chi volesse intervenire. Professore, io le faccio un'altra domanda in questo senso. Lei giustamente ha detto prima era messa in un angolo il cibo anche dal punto di vista culturale. Mi sembra però che, diciamo, questa stagione di moda rischi ancora di metterlo in un angolo il cibo e si parli in superficie, non si vada a fondo, non si vada alle origini, non si vada proprio alla cultura, a cominciare dagli spettacoli televisivi. Non si parla mai di prodotto, di territorio, di origine dei prodotti. Io ho questa impressione, lei come la pensa? Ma io penso che nella gastronomia c'è un po' di tutto, c'è chiaramente un discorso superficiale che è quello della maggior parte dei media, la televisione prima di tutto, su cui adesso magari dico qualcosa, ma c'è anche, secondo me, rispetto a, come dicevo poco fa, rispetto a ancora pochi anni fa, un recupero di tutto ciò. È evidente che è ancora un discorso di nicchia, che è ancora un discorso di pochi, ma che si sta diffondendo sempre di più. È chiaro che lì poi il passaggio fondamentale sarà quando diventerà educazione alimentare, quando entrerà a far parte dei programmi scolastici, e lì siamo ancora molto, ma molto lontani, ovviamente. Nelle ultime riforme scolastiche di alimentazione si parla pochissimo, quando dico alimentazione intendo dire cucina, ma intendo dire gusto. Quindi è chiaro che c'è tutta una tematica ovvia sul problema della salute, sul problema degli sprechi e quant'altro, ma c'è anche un qualcosa di molto più banale, cioè quella del saper apprezzare i sapori, saperli comprendere, saperne comprendere il portato culturale. Per quanto riguarda la televisione, se ho un attimo, certo, anche certo. Lì, la televisione è, come dice qualcuno, è un circo Barnum, è una parola che ultimamente, espressione che ho sentito ripetere spesso in questi ultimi giorni. Però c'è di tutto anche lì, cioè è chiaro che ci sono cose spettacolari, per cui poi la cucina diventa reality show, diventa talent show, e mi sto riferendo ad un programma precisamente, ma è anche vero che ci sono canali tematici, ci sono trasmissioni serissime, quindi direi non facciamo di tutte le erbe un fascio. Quello che la televisione secondo me non dà, dà moltissimo sul campo delle tecniche culinarie, no? Quindi tutti stanno lì, spadellano in qualche modo, danno ricette via televisione. Quello che nessuno dà è il momento della convivialità, cioè non c'è una cultura del cibo legata ad una cultura della socialità. La televisione non parla mai di questo. L'esempio tipico di cui parlo un po' nel libro è l'idea dell'assaggino, no? L'idea del nessuno mangia un piatto, tutti assaggiano. Ecco, assaggiare è divertente, ma forse potremmo anche sederci, prendere forchetta e coltello e rasserenarci e mangiare un po' più calma con gli altri. Bene, professore, la ringrazio, grazie del suo intervento e buona domenica. Grazie a lei e buona domenica. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Questa canzone di Mina sicuramente arriva a proposito, visto che stiamo parlando se il cibo ormai è diventato tutta una parola, se ne parla ovunque, quindi come dicevo prima se ne parla in televisione, se ne parla appunto in radio, se ne parla sui giornali, ma molto più di prima. Quindi io ricordo gli anni 80 in cui se ne parlava veramente molto poco rispetto ad oggi. Ma ricordo 800 24 0024 chi vuole intervenire e 349 238 6666 chi vuole mandare un sms sull'argomento. Sentiamo una radioascoltatrice, Valentina da Bologna. Buongiorno Valentina. Buongiorno, salve. Prego. Io volevo fare questo approfondimento, questa considerazione. Secondo me, oltre ad essere una grande moda, il cibo è anche una delle cose più consolatorie che ci sono, diciamo, in natura, e che si riesce ad ottenere anche con una spesa ridotta. Per cui in un momento in cui sicuramente c'è crisi, ci sono pochi soldi, è anche un modo per consolarsi senza andare in grandi ristoranti, senza spendere cifre in viaggi o in esperienze gastronomiche particolari. Per cui credo che in questo momento abbia una valenza più che altro di questo tipo, almeno da quello che io ho modo di vedere. Senta Valentina, lei ha parlato appunto di non grandi ristoranti e quindi di cibo, diciamo, a un prezzo accettabile. A che cosa si riferisce in particolare? Io mi riferisco anche al moda che abbiamo un po' tutti adesso di fare i grandi chef a casa in compagnia di amici. Almeno io vedo nella mia quotidianità che spesso e volentieri non si va nei grandi ristoranti, ma a rotazione a casa di amici, ognuno si improvvisa cuoco, chef e presenta piatti. Quindi è anche un modo per stare in compagnia con delle spese abbastanza low cost e che permette anche di fare esperienze belle, di stare insieme, anche se è un periodo che normalmente non si potrebbe fare. Bene, grazie, grazie Valentina, ma devo dire, abbiamo detto che del cibo se ne parla troppo, se ne parla ovunque, però se ne parla da tantissimo tempo, da tempo immemorabile, anche nella Bibbia, e c'è un personaggio che ora vi presento che ha scritto la Bibbia, il più grande libro di cucina mai scritto. Ebbene, e questo è l'intervento che Giacomo Poretti, che fa parte del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ma qui io l'ho cercato, lo faccio intervenire solo perché si è occupato di questo problema, quindi non c'entra niente con la sua attività, diciamo, spettacolare. Ed ha scritto un testo che è stato presentato in Piazza Duomo a Milano per l'evento spettacolo voluto dal Cardinale Scola per riflettere su Expo. Ecco, devo dire che io ho letto questo testo e è divertente, ma al tempo stesso fa riflettere. Divertente come Giacomo poteva scrivere, ma allo stesso tempo appunto richiama certi valori. Buongiorno Giacomo. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Bene, come hai pensato di scrivere appunto questo testo così brioso, così che magari quasi sullo scherzo però fa riflettere tanto? E beh, quando sono stato interpellato dagli organizzatori, che poi la manifestazione l'ha voluta il cardinale, l'arcivescovo di Milano, ho aderito, perché sul tema del cibo, che è vastissimo e non ho nessuna pretesa di esaurirlo in quelle poche cartelle che ho scritto, però è un tema talmente stimolante, come ha già detto anche l'ascoltatrice prima, è una grandissima metafora il cibo, non è solo mangiare e basta, rimanda a qualcosa di molto molto più importante. Senza il cibo, dico delle banalità, non staremmo in piedi, non staremmo in vita. Io ho cercato di coniugare le due cose con anche un cibo spirituale, anche senza, certo, di quello si fa fatica ad avere una vita quantomeno piena e felice, ecco. No, tra l'altro tu hai scritto: forse qualcuno avrebbe tentato di pensare che solo la modernità ha portato con sé problemi, fastidi, disturbi legati al cibo, che intolleranze, anoressie, bulimie ed altri disturbi psichici siano materializzati solo dal XX secolo. E invece no. È così? No, assolutamente sì. Tutti i disturbi legati al cibo adesso sono anche questi tragicamente di moda, come la bulimia, l'anoressia, ma sono convinto, sono certo, ci sono delle tracce anche nella Bibbia e in altri testi che segnalano questi disturbi. Il rapporto scorretto con il cibo ci è sempre stato, al di là della possibilità di possederlo o meno, no? Certo. Però c'è sempre stato. E poi nell'intervento che spesso, attraverso il cibo vengono fatte delle cose straordinarie, ma vengono fatte delle cose terribili, terrificanti, no? Io ho riportato in maniera divertente l'episodio del piatto di lenticchie tra Giacobbe ed Esaù, ma ce ne sarebbe una serie infinita. È come se la Bibbia ci dicesse che, attenzione, attraverso il cibo passa uso un termine un po' così, un'educazione al senso della vita, che è molto molto importante, ecco, secondo me. Rimani con noi Giacomo, sentiamo Ennio da Firenze, un radioascoltatore. Buongiorno Ennio. Sì, buongiorno signor Paolini. Prego. Senta, no, io anch'io volevo intervenire sul discorso del cibo, che secondo me si dipende troppo poco il cibo. Cioè, sì, è vero, se ne parla e se ne è parlato abbastanza, eccetera, eccetera, ma per quanto dipendere il cibo, quello che è importante, cioè nel senso, dipendendo il cibo, non solo si dipende il cibo, ma si dipende anche la terra. Ed è un'altra cosa che ha un'importanza vitale. Per tutto quello che sta attorno al cibo. Beh, siamo d'accordo. Siamo d'accordo, Ennio, sicuramente vorrei... si parla poco di questo, come abbiamo detto prima, si parla poco di terra, si parla poco dell'origine del prodotto, si parla invece magari della lavorazione del prodotto e della ricetta. Prego. Esatto, esatto. Per cui sono contento che una persona come lei, che porta questa diciamo bandiera, che con i mezzi di comunicazione Sono veramente contento. Bene, grazie Ennio. Grazie Ennio, abbiamo capito cosa voleva significare. Ma io ora ho anche con noi un autore di un libro che si intitola Non si finisce mai di impanare. Buongiorno a Stefano Piazza. Buongiorno Stefano. Buongiorno, buona domenica a tutti. Bene, mi sembra che nel tuo libro tu abbia un po', come posso dire, riassunto molto di quello che stiamo parlando. Insomma, cibo, ancora cibo. Cioè tu fai magari anche con ironia un po' la fotografia di quanto sta succedendo. Sì, io direi di sì, insomma, con intenzioni ancora più basse, insomma, di quanto espresso finora, ma io credo che, come diceva Giacomo Poretti poco fa, senza il cibo non ci saremmo, ma senza il cibo ci divertiremmo anche meno. Il cibo è fondamentale per tutti, ma ricordiamoci quanto è fondamentale anche per stare insieme, per ridere, per incontrarsi. Ai matrimoni si mangia, ai battesimi si mangia, quindi diciamo che raccogliere le parole legate al cibo è stato il passo successivo, e di parole, insomma, come sappiamo, ce ne sono tantissime legate a questo argomento, soprattutto oggi. Ecco, tu fai riferimento anche alla TV e agli chef. Sì, questa è una moda che, insomma, io da appassionato di cibo, ma in realtà più da appassionato di buona tavola che di cucina in quanto produzione, diciamo, capisco fino a un certo punto, però è una moda planetaria, è una moda che non ho la pretesa di spiegare, anzi io credo che sia abbastanza incomprensibile, nel senso che per rifarmi a altri esempi popolari, anche se forse impropri, a un certo punto il mondo impazzisce per X-Files o per i Take That, e esempi di prodotti simili un minuto prima o un minuto dopo falliscono. Oggi c'è questa moda di MasterChef, che è un prodotto fatto benissimo, o di altri programmi di cuochi, di chef fatti benissimo, ma si è sempre parlato di cibo, ne parlavamo anche poco fa, ne parlava Giacomo Poretti della Bibbia, per esempio. Oggi all'improvviso diventa una moda, e io non ho la pretesa di spiegare perché, ma credo che rimarrà un mistero. Certo. Sì, ma cercheremo anche poi di approfondirlo nel corso della trasmissione. Giacomo, volevo chiederti, ma anche tu hai l'impressione, al di là di quello che hai scritto, appunto, che ci sia una sovrabbondanza di parole e di atteggiamenti e di interessi verso il cibo? Sì, assolutamente sì, anche qua non voglio giudicare, però io sono un appassionatissimo, tu mi conosci, Davide, sia del mangiare che del bere, però credo che adesso l'aspetto formale abbia preso il sopravvento, sia molto più importante come venga impiattata una cosa e l'estrema sofisticazione del cibo, no? Faccio un esempio, no? Una volta, a proposito della fotografia, no? Si riteneva che il fotografo era bravo se coglieva quell'attimo lì e basta, perché non c'era Photoshop o altre cose. Mi sembra che, non so se sia giusta questa posizione, un po' romantica lo è, però adesso invece con Photoshop c'è un'immensità di possibilità di variazione sulla fotografia. Però ho l'impressione che manchi l'anima sia dell'immagine, che ci sia poco desiderio di raccontare qualche cosa, ma ci sia soprattutto un desiderio un po' nevrotico di rappresentare a tutti i costi. Io credo che qua, dico una banalità un po' da anziano, un po' retro, però ieri sera eravamo con degli amici a casa, in cucina, e abbiamo condiviso del salame, del formaggio e del buon vino. È stato un momento eccezionale, perché lì riconosci che l'amicizia si afferma attraverso il cibo, però attraverso queste cose importanti. Voglio fare il moralista, però adesso... Certo, voi non l'avete fotografato e poi messo su Instagram quel salame, no? Non l'avete fotografato e poi condiviso via internet? Davide, non sono social proprio, sono antico, bene. Comparirò come certi salami, certi formaggi, ma non importa. Grazie Giacomo Poretti e Stefano ciao, Piazza, ciao. Grazie Lina alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Just like pasta, fuzzle, that's some more. Torniamo, si parlava di pizza e qui erano i tempi in cui imperversava una cucina molto particolare negli Stati Uniti, una cucina di importazione, una cucina di emigrazione. Ebbene, altri tempi, ma voglio sentire Marco da Napoli. Buongiorno Marco da Milano, scusi, Marco da Milano. Ah, prego. Pronto? Sì, prego, Marco. No, io ho sentito la vostra trasmissione, sono kinesiologo, mi occupo di alimentazione, ma soprattutto di assimilazione. Ho notato che spesso si parla di alimentazione senza assolutamente prendere in considerazione l'assimilazione, che è uno dei problemi primari dell'alimentazione stessa. È inutile che io faccia una dieta se poi non l'assimilo, questa mi intossicherà, no? Sì. Bene, oggi diciamo che le diete possiamo sfiorarle, non andare nel concreto, però la ringrazio di questo suo intervento, come ringrazio il professor Niola che è con noi, è docente di antropologia all'Università di Napoli, è scrittore, ha scritto tantissimi libri e uno, l'ultimo addirittura molto interessante, ma anche gli altri ovviamente, Homo Dieteticus, viaggio nelle tribù alimentari. Buongiorno professor Niola. Buongiorno a voi. Senta professore, stiamo discutendo, appunto, si parla troppo di cibo, è arrivato all'improvviso, finirà, ma diciamo il nocciolo è: perché proprio in questo momento c'è questa fiumana di interessi, di parole, la televisione, i giornali, i media, un po' tutto, perché proprio in questo momento storico? Molto probabilmente la cibomania contemporanea, perché proprio di cibomania si tratta, è figlia anche dell'insicurezza dell'uomo di oggi. In fondo l'Homo Dieteticus, che dà il titolo al mio ultimo libro, è proprio l'espressione di tutto questo. È, diciamo che è il figlio dell'Homo Economicus, no? L'Homo Economicus nasce in un momento in cui la nostra civiltà, l'Occidente, ha il mito del progresso, ha davanti a sé autostrade di tempo che pensa di poter percorrere, e quindi un uomo ottimista. L'uomo dieteticus, l'uomo ossessionato dal cibo, invece è un uomo che ha paura di tutto e investe tutto sul suo corpo, che fa il suo, come devo dire, bene rifugio, il suo capitale immunitario, e quindi l'immunità, la longevità, la salute, le diete diventano proprio l'oggetto di una specie di religione del corpo. Ecco, lei parla in questo suo libro di tribù, appunto del cibo, quindi sempre più diciamo questa nuova era sta portando diciamo delle tribù completamente diverse dal passato. Sì, certo, una tribalizzazione dei nostri costumi alimentari, quindi ci dividiamo in no gluten, vegetariani, vegani, lattofobi, fruttivori. E chi più ne ha più ne metta, ci sono perfino i vegan sexual, quelli che non fanno sesso con chi è carnivoro per paura della contaminazione. Quindi siamo proprio, abbiamo davanti uno scenario tribale e nello stesso tempo che ha qualcosa di religioso, di penitenziale, no? Di sette alimentari. E tutto questo però ci fa riflettere su una cosa, che quello che viene a mancare in questa ossessione del cibo è l'elemento fondamentale dell'alimentazione, cioè la convivialità. Il cibo, la nutrizione umana non è come quella degli animali. Gli uomini non mangiano solo per sopravvivere e obbedendo a un programma genetico fissato dalla natura. L'alimentazione umana è cultura, quindi anche scambio e convivialità e stare insieme. Plutarco diceva: non ci sediamo a tavola per mangiare, ma per mangiare insieme. Invece oggi nella maggior parte delle diete che sono diventate, ripeto, la nostra vera religione, si parla solamente ossessivamente, appunto, di nutrienti, di assimilazioni e di tutti questi aspetti, e si trascura invece proprio quell'elemento conviviale, che il cibo è identità, è unione, è stare con gli altri e scambiare soprattutto con gli altri, non è solitudine. Qualunque dieta, anche la più salutare, se noi la consumiamo da soli non ci farà bene. Rimanga con noi professore, sentiamo un radioascoltatore, Enrico da Modena. Buongiorno Enrico. Buongiorno, io ho sentito prima l'intervento che riguardava il parallelo di Poretti sulla fotografia. Io faccio il fotografo e giusto per questo posso dire che dal punto di vista fotografico non è che una volta non si facessero le cose che si fanno oggi con Photoshop, è proprio voglia di stupire quello che si fa adesso con Photoshop. E la stessa cosa secondo me succede in cucina. Si è fatto spettacolo di quello che sono tutte le forme di cucina, ma non si va poi a guardare nel sottile, si guarda soltanto alla forma di eclatante, ok? Sì. Non si parla della qualità del cibo quanto del come impiattarlo, del come prepararlo, del come stupire le persone che dovranno ricevere il piatto, ma nella sostanza io credo che il fenomeno di Instagram, il fenomeno di internet, di chi fotografa a tavola poi si trasmette appunto agli amici, e quindi non si cerca più l'hai mangiato, è buono, è cattivo, ma semplicemente mi piace, un commento sulla foto. Questo è un modo di vivere questa era digitale, e quindi di viverla in questa maniera. Poi sicuramente c'è chi lo ama fare e chi non lo ama fare. Professore, lei cosa ne pensa di questo, diciamo, sviluppo appunto della recensione via internet e via foto di piatti, e quindi di sapori e di profumi che non ci sono poi? Sì, infatti diciamo che è il cibo che entra nell'era della società dello spettacolo, e nello stesso tempo c'è una forma di voyeurismo digitale, perché anche l'idea che io posso fotografare il cibo e trasmettere immediatamente, postare l'immagine, mostrare dove sono stato, ha qualcosa di narcisistico e di voyeuristico nello stesso tempo. Mi è successo proprio di recente in un ristorante di cui non so se posso fare il nome. Prego, sì, non c'è problema. Da Don Alfonso, sì. Da Alfonso Iaccarino, sì. Che è secondo me un tempio della dieta mediterranea, e davanti a un piatto di spaghetti meravigliosi c'erano delle persone che hanno passato moltissimo tempo a fotografare questo piatto, sono passati più di 5 minuti, e lei mi insegna quanto danno possano fare quei 5 minuti a un piatto di spaghetti, certo, al dente appena serviti. Certo. E in questa specie di coitus interruptus che al cibo progetto c'è qualcosa di profondamente perverso, a mio avviso. Ma io credo che sia veramente così un momento di solitudine, di cercare dall'altra parte una convivenza a tavola che non si trova più, forse molti non trovano più, quindi non vedono più il cibo come momento di discutere, di parlare e di convivialità tra commensali, e in realtà di andarlo a cercarlo altrove. Sì, è proprio così come dice lei, c'è questa solitudine sempre maggiore. Noi siamo ormai una folla di persone sole, siamo tanti, ma ciascuno di noi poi è solo, e nello stesso tempo c'è anche una grande insicurezza, e allora il cibo diventa l'interfaccia di un rapporto con il mondo che diventa sempre più complicato, e quindi noi riversiamo sul cibo tutte le nostre ansie, perché in fondo abbiamo l'impressione che su quello ci possiamo fare qualcosa, sul resto no, la realtà è complicata. E non è un caso forse che oggi tutte le grandi paure hanno sempre a che fare con l'alimentazione, sì, con l'insicurezza alimentare, e questo spiega anche il perché di certi fenomeni che apparentemente col cibo non dovrebbero avere molto a che fare, come il boom dei cibi kasher, che sono quelli prodotti secondo le regole della tradizione ebraica. Negli Stati Uniti il 30% della spesa alimentare, sì, ormai si indirizza su cibi kasher, sì, sì. Ma gli ebrei in America sono l'1% della popolazione, il che vuol dire che c'è quasi un 30% di persone che comprano i cibi certificati dal rabbino pur non essendo ebrei, perché si sentono più sicuri, perché hanno più fiducia nell'autorità religiosa che nell'autority alimentare, e questa è la spia di una grande insicurezza. Io direi che l'altro 30% compra gluten free perché pensa di trovare un cibo molto più sano, ma chi non è intollerante e chi non è celiaco sicuramente si trova di fronte a un cibo che lo ingrasserà per forza, perché dentro ci sono grassi per tenerlo assieme, e quindi assolutamente sarà così. Però purtroppo è questo il discorso anche qui del sano, perché? Perché viene propagandato negli Stati Uniti il gluten free da una serie di attrici molto famose che si occupano anche di cucina, e questo le porta appunto a consumare quel tipo di cibo. Bene, la ringrazio professore, grazie del suo intervento, grazie a voi. Ricordo Homo Dieteticus, viaggio nelle tribù alimentari, perché è veramente interessante. Grazie, a presto. Bene, voglio leggere ora un sms che mi dice: non vedo l'ora che finisca sia in TV sia sui social questa farsa su una falsa cultura del cibo e di tutte le manie, le scemenze e gli esibizionismi legati alla fotografia continua ed ossessiva dei piatti cucinati e dei dolci soprattutto. Ho 40 anni, sarò antico, ma forse sono genuino. Bene, grazie, grazie a questo radioascoltatore. Ce ne sono tante altre di questo tenore, ne ho letto uno appunto che fosse un po' il fulcro. Ricordo 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, quindi io vorrei sentire ancora è caduta la telefonata. Bene, leggo un'altra sms. Buongiorno, sì, è una moda fastidiosa. Dopo aver visto al Salone del Libro di Torino cuochi cucinare davanti al pubblico, i cuochi si comportano come semidei. E aggiungo, non vedo i nuovi trendy, programmi sul cibo. Le cose proposte sono troppo costose per tre quarti della popolazione, al di là della cultura dei non spreco. Ecco, questo è un altro discorso che tocca sullo spreco, ritocca sulla televisione. Insomma, diciamo che il clima è sempre questo. Le risposte dei nostri radioascoltatori vanno tutte in questa direzione. Ora passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Le caffè, che sigaretta coppa per un bare, che stanno a chi ne sbaglio, fanno solo un broia. Bene, facciamoci un caffè, ma ancora è troppo presto, magari dopo pranzo di sicuro. Bellissima canzone di Pino Daniele. Sentiamo Giuseppina da Modena. Buongiorno Giuseppina. Buongiorno, buongiorno a lei. Prego. Io ho due considerazioni, spero rapide. La prima è questa: quando io frequentavo la scuola media, una delle materie che facevano fare era economia domestica all'interno dell'educazione tecnica per le ragazze. Penso che questa, così come diceva il professore Palermitano, sì, il sapere e la conoscenza possa aiutare non solo a ritornare a mangiare sano e bene, ma anche a rispettare se stessi e il cibo, perché forse oggi lo rispettiamo poco, anche dal punto di vista della stagionalità. Compriamo tutto l'anno, e invece forse sarebbe bene tornare ad acquistare i prodotti stagionali. Giuseppina, sono d'accordo con lei sull'economia domestica, perché appunto insegnerebbe molti a far la spesa e a non sprecare, perché il problema dello spreco non è poi di recuperare, ma quello di prevenire lo spreco. Quindi sono completamente d'accordo. Giuseppe, se tu vuoi intervenire, 800 24 00 24, non è che noi ti possiamo chiamare, quindi se vuoi intervenire 800 24 00 24. Bene, ora andiamo addirittura in Russia, andiamo da una scrittrice che si chiama Elena Kostiukovic. Buongiorno Elena. Buongiorno, buongiorno Davide. Ecco, Elena, diversi anni fa, forse anticipando questo fenomeno, ha scritto un libro che allora pareva un po' così, come posso dire, troppo precipitoso ancora, perché agli italiani piace parlare del cibo, che oggi è sicuramente un libro di grandissima attualità perché colpisce un po' questo momento. Come mai tu avevi già individuato questo fenomeno, Elena? Ma per esperienze dirette sicuramente, perché dopo essere arrivata in Italia, io abituata ai dialoghi intellettuali dei salotti letterari moscoviti, sono stata colpita dalla frequenza dei temi della gastronomia. Però devo dirti che scoprendo tutto questo, vivendo in Italia, parlando con molti, anche ho avuto il piacere e l'onore di parlare anche con te sul palcoscenico alla presentazione del libro, ho capito che queste conversazioni non sono assolutamente meno interessanti, meno colte, anzi di più, stavano dicendo dell'Italia, del paese Italia e del carattere degli italiani tante cose quante non ogni conversazione letteraria o politica può dire. Quindi ho scoperto che è un linguaggio molto valido, infatti nei tuoi libri, nei libri dei colleghi, si vede quanto in realtà questo codice culturale è onnipotente, che parla di tutto. Infatti adesso l'Expo, vero? Sì. Quello che a Milano parla tutto il mondo di valori morali, la carta di Milano che si propone è come se fosse un nuovo editto di Milano che avevano di Costantino nel 313, che questo editto che permetteva a tutta la popolazione di avere la religione, quella che vuole, libera. Il cibo è la stessa cosa, è l'espressione della libertà, espressione di generosità, è molto importante. Bene, rimani con noi, sentiamo Fabrizio da Milano, radioascoltatore. Buongiorno Fabrizio. No, è caduta la linea, oggi cadono tutte le linee. Bene, io voglio leggere però, perché avevamo dato, diciamo, durante la trasmissione, dice perché oggi è successo tutto questo. Tu già hai cominciato a darci una spiegazione, ma c'è un radioascoltatore che dice: secondo me è solo una nevrosi di massa. Poco, caro radioascoltatore, non credo che sia così semplice. Un altro dice: mi permetto di sottolineare come l'attenzione ossessiva per il cibo risalga almeno agli anni 80, solo che ora siamo al dilagare del fenomeno anche in fasce socio-economiche insospettabili. Trovo inquietante che la mia ex cognata, al posto delle consuete lasagne, l'ultima volta mi abbia servito un polpettone al pompelmo. Siamo al basso impero. Bene, e Elena, io torno a te, perché tu quando vivevi in Italia mi dicesti, durante questa presentazione di questo libro, c'è un'abitudine che avete voi che non riscontro altrove, che mentre mangiate parlate immediatamente di altri piatti invece di gustare direttamente quel piatto, o parlate di altri momenti in cui avete mangiato. È così? È vero. Questo allarga molto l'orizzonte di ognuno che è a tavola in questo momento. Infatti voi italiani, parzialmente anche io quando sono in Italia, partecipiamo a alla creazione di un quadro completo, e assolutamente non sono d'accordo con chi critica questa abitudine e dice che sono inquietanti le conversazioni. No, infatti se avesse l'abitudine un italiano normale semplicemente di parlare di questa pasta, sarebbe noioso, stupido, sarebbe molto meschino, anche non so come dire, molto basso questo processo di conversazione. Certo. Invece no, si parla addirittura della storia, e del futuro, come in questa Expo, perché l'Expo è proiettata al futuro. Il Bene. Cibo che è il nostro codice culturale per il futuro. Infatti io volevo dire ai nostri radioascoltatori che noi, io e te, potremo approfondire questo discorso il 3 giugno alle 19 allo certo. spazio Open More Than Books a Milano. Certo. E questa sarà un'ottima occasione per noi, vero? È un programma che si chiama Italy Why Not, ed è un programma molto interessante, profondo, con molti partecipanti che parlano dell'Italia, non solo del cibo. Bene, mi sembra interessante. Grazie Elena, appuntamento al 3. Sentiamo Giuseppe da provincia di Roma. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Dunque io faccio soltanto una piccola osservazione, spero utile. Allora, io finché mangio mi sento vivo, perché il cibo è vita, abbiamo bisogno non solo per la sopravvivenza ma anche per relazionarci a tutti quanti, eccetera. Quindi diciamo che di per sé è un argomento molto complesso, però c'è un qualche cosa che negli ultimi anni, col passare degli anni, io sono verso i 70, mi dà come l'idea che mangiare è come una lotta contro il tempo. Cioè più e meglio mangio, io riesco a mangiare, diciamo, con una qualità, con un'attenzione e con quella quantità e qualità necessarie a sentirmi vivo, e più è come se sotto pelle io scacciassi l'idea della morte. Perché? Perché appunto il cibo, dal momento in cui ci allattiamo al seno materno, ci accompagna per tutta la vita nelle varie fasi, e per cui di conseguenza è come un rapporto con l'evoluzione della nostra età. Lei dice dunque il cibo è vita, insomma, il cibo è vitalità e vita, questo vuol dire? Il cibo è vitalità e vita, e ci serve questa attenzione ossessiva, certo, che oggi stiamo dicendo tutti che c'è nei confronti del cibo, perché Bene. Abbiamo paura della morte, dovremmo campare il più a lungo possibile. Appunto, le paure, scacciare le paure, come diceva il professor Gnola, incertezze. Esattamente, ecco. Condivido al 100%. Sentiamo Fabrizio da Milano. Fabrizio, 30 secondi. Sì, buongiorno. Prego. Io volevo dire una cosa sul discorso di Instagram che si faceva prima delle fotografie dei piatti, sì, che è verissimo, sono di una tristezza incredibile, eccetera. Io cosa faccio? Faccio sì anche io delle foto e metto su Instagram, Facebook, eccetera, ma di amici, parenti, eccetera, di fronte al piatto che mangiano. Quindi lei le vitalizza in questa maniera, come ricordo, insomma, mi sembra di capire. Grazie, grazie Fabrizio. Allora io voglio rispondere a un radioascoltatore. Io non ho niente, nessun problema per parlare di Codex Alimentarius, caro radioascoltatore. In questo momento non era il caso, ma sicuramente lo affronteremo. Qui c'è piena libertà, non come altrove. Allora a tutti, abbiamo finito questa trasmissione e cosa mi rimane? Mi rimane che augurare oggi, dopo aver parlato tanto di cibo e tanto di mangiare, un buon pranzo e sicuramente una buona domenica. Grazie in regia, in redazione. Ritorneremo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio, con un argomento diverso. A presto.